giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Trentenne muore dissanguato dopo aver sfondato una porta a vetri. È successo questa notte a Trieste in un appartamento del rione di Roiano. Nel pomeriggio una lite con la compagna. Domani mattina in carcere a Verona l'interrogatorio di garanzia di Filippo Turetta, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettine. Il giovane dovrà scegliere se rimanere in silenzio, fare solo dichiarazioni spontanee o confessare, anche collaborando alle indagini. Inaugurato il 46esimo anno accademico dell'Università di Udine, Lectio Magistralis su robotica e intelligenza artificiale, Udine diventi una vera città universitaria, la richiesta degli studenti. La tassa di soggiorno verrà istituita anche a Udine, fino a 2 euro a notte per pernottare in città, discordanti i pareri degli albergatori. Uno dei più acclamati direttori d'orchestra al mondo, Sir Antonio Pappano, ieri sera sul palco del Teatro Verdi di Pordenone, la Sesta Sinfonia di Dvorak e l'Allegro di Elgar, i brani diretti dal maestro britannico di famiglia italiana. La donna longobarda, figura più emancipata di quanto non si pensi, il docufilm a lei dedicato, che ha già ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, è stato selezionato per la finale del Festival Internazionale del Cinema di Salerno al Via oggi. Ancora una buona giornata da Dario Ronzoni e da Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. In apertura dunque il fatto di cronaca accaduto questa notte in un appartamento del rione di Roiano a Trieste, la cui dinamica è ancora da chiarire. Un giovane di 30 anni è morto dissanguato dopo aver infranto una porta a vetri. La lesione all'arteria femorale non gli ha lasciato scampo. È morto dissanguato poco dopo la mezzanotte il triestino Diego Sollazzi, di 30 anni. Fatali le ferite dovute alla rottura di una porta a vetri interna alla casa di Roiano, in Scala Santa 1. Era appena rientrato dopo una serata passata fuori. Secondo quanto riferito alla polizia dalla sua compagna, che si trovava nell'appartamento, l'uomo, in stato di alterazione alcolica, avrebbe provato a forzare l'apertura della porta, della quale uscendo aveva rotto la maniglia, dopo che i due avevano litigato nel pomeriggio. Frantumandosi, la vetrata gli ha riciso l'arteria femorale. La gravità delle sue condizioni è apparsa evidente al personale sanitario giunto sul posto con ambulanza e automedica insieme alle volanti della polizia. I vicini hanno presto capito che si trattava di qualcosa di serio. Dopo un po' di via vai, ti vedi che lo portano via in barella, poi si è alzati, già là vai a pensare un pochettino che c'è qualcosa che veramente è andato storto. I soccorritori hanno utilizzato anche un massaggiatore meccanico, ma il dissanguamento derivante dalla rottura dell'arteria femorale, se non fermato o tamponato immediatamente, lascia poco tempo a disposizione prima dell'arresto cardiaco. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi del caso. Dai primi accertamenti non sembrano esserci responsabilità penali a carico di alcuno e l'appartamento non è stato sottoposto a sequestro. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Atteso per questo pomeriggio un nuovo incontro, dopo quello di sabato, tra Filippo Turetta, in carcere a Verona da 2 giorni per l'omicidio di Giulia Cecchettine, e il suo legale, l'avvocato Giovanni Caruso. Il faccia a faccia col difensore sarà importante per Turetta per la strategia difensiva in vista dell'interrogatorio in carcere davanti al GIP di Venezia, fissato per domani mattina. Il giovane dovrà scegliere se rimanere in silenzio, fare solo dichiarazioni spontanee o confessare, anche collaborando alle indagini e rispondendo alle domande. Per ora resta detenuto nel reparto infermeria, dove pare dovrà stare ancora qualche giorno per completare la fase di colloqui e valutazioni psicologiche e psichiatriche. Poi sarà spostato nella sezione protetti, dove, oltre ad essere sorvegliato a vista contro il rischio suicidio, non avrà contatti a sua tutela con detenuti in carcere per altre tipologie di reati. Viene descritto come tranquillo, ha chiesto di poter leggere libri e di incontrare i genitori, ma non potrà farlo prima dell'interrogatorio. Ieri ha incontrato anche il cappellano dell'istituto penitenziario. Intanto il suo legale oggi avrà copia degli atti alla base dell'ordinanza di custodia cautelare per omicidio volontario aggravato e sequestro di persona. I controlli del commissariato di Duino hanno consentito l'arresto di 2 latitanti in pochi giorni. Sulla A4 in direzione Monfalcone, presso l'area di servizio nel comune di Sgonico, la volante del commissariato di pubblica sicurezza di Duino ha controllato un'autovettura con targa italiana con 3 cittadini kosovari a bordo. L'autista, un 32enne, aveva precedenti per traffico di stupefacenti in Kosovo. L'altro arresto, in un secondo controllo, a San Giovanni di Duino, sulla A4 in direzione confine di Stato. Un cittadino albanese di 48 anni è stato arrestato per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, sempre per reati di droga. Diamo uno sguardo al tempo, il cielo da poco nuvoloso a variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 11 gradi e 5 decimi, a Udine 7 gradi e 5 decimi, a Pordenone 6 e 5, a Gorizia 5 gradi, a Tolmezzo 3 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 2, a Piancavallo e a Tarvisio 5 decimi di grado positivi, a Sappada meno 3 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan meno 4, sul Monte Lussari meno 4 gradi e 5 decimi. A Grado 7 e 5, a Lignano 7 gradi. Le previsioni in giornata: aumento della nuvolosità con cielo in prevalenza coperto. Verso sera saranno probabili delle piogge sparse, in genere deboli, specie su pianure e costa orientali, e saranno possibili delle deboli nevicate sulla zona montana, specie sulle prealpi Giulie, oltre i 600 metri di quota. In montagna possibile locale formazione di ghiaccio al suolo nella notte tra oggi e domani, anche nelle zone dove prevarrà la pioggia. Lectio magistralis su robotica e intelligenza artificiale, ma anche attenzione all'attualità con la condanna di ogni tipo di violenza. L'Università di Udine ha inaugurato il suo 46esimo anno accademico. 45 anni fa, il 2 novembre 78, il primo ingresso degli studenti nelle aule dell'Università di Udine. Oggi, come è stato sottolineato alla cerimonia per l'inaugurazione dell'anno accademico 23-24, il 46esimo dell'Ateneo, l'attrattività è in continua crescita, più 5% di immatricolazioni, con un più 26% per la sede di Gemona e più 24% a Gorizia. In quella di Pordenone nasce un nuovo corso di laurea triennale in Ingegneria dell'Energia. 30 milioni per il piano strategico di Ateneo 22-25, più della metà destinati all'edilizia universitaria, anche se non sono mancate le critiche degli studenti per la mancanza di soluzioni a largo respiro rispetto al vuoto lasciato dal complesso dell'ex studentato di Viale Ungheria. Novità di quest'anno, indica il rettore Roberto Pinton, l'introduzione di una tassazione agevolata per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento. È un progetto PNRR che ha portato ad accordi con le scuole per l'erogazione di corsi di orientamento a 1.400 studenti. Elevare la qualità didattica e della ricerca è uno degli obiettivi, è stato ribadito. Sul fronte progettualità scientifica, dal 2018 al 22, la percentuale delle entrate da bandi competitivi è passata dal 9 al 72%. Ricordata a inizio cerimonia nel polo economico-giuridico, Giulia Cecchettin. Imprescindibile, secondo la rappresentante degli studenti Rachele Ughetti, che l'università e l'istruzione si prodighino per formare una coscienza collettiva che educhi all'affettività. La rappresentante del personale Francesca Giannelli ha fatto riferimento a stipendi inadeguati, contratto scaduto e risorse erose dall'inflazione, chieste nuove assunzioni e rappresentatività in consiglio di amministrazione. Lectio magistralis della presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Maria Chiara Carrozza, e prolusione affidata al professor Silvio Brusaferro, il quale ha battuto sulla necessità di rafforzare gli investimenti nella sanità pubblica e ben comunicare i benefici che questi apportano alla salute di ognuno, anche per rafforzare la fiducia nelle istituzioni. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Dall'autunno del prossimo anno i turisti che visiteranno Udine dovranno pagare la tassa di soggiorno. La decisione presa dall'amministrazione comunale servirà a finanziare il settore. Sentiamo i pareri degli albergatori. Sono contrastanti i pareri degli operatori del settore alberghiero sull'introduzione a Udine, dal prossimo ottobre, della tassa fino a 2 euro al giorno per pernottare nelle strutture ricettive, case vacanza o affitti brevi del capoluogo friulano. Un introito per le casse del comune dal 2025 a seguire di circa 650.000 euro in più ogni anno da poter investire nel comparto turistico, il 65% in quello della mobilità e delle infrastrutture, il restante 35% legate al turismo. Davide Marrona. Noi fino ad adesso non l'abbiamo avuta presente, al contrario di quasi tutte le città d'Italia, e anche parlando con i miei colleghi penso sia una cosa molto interessante per incentivare anche le migliorie che possono esserci a livello turistico qua a Udine. Anna Balducci. L'ospite di Udine è un ospite fidelizzato, e sia nel turismo che nel business, e questa tassa di soggiorno verrà percepita ovviamente come un costo aggiuntivo, e probabilmente a favore di località intorno al comune di Udine, quindi probabilmente noi alberghi di città verremo penalizzati in questo. Edoardo Marini. Vedremo come verrà gestita ed applicata, perché Udine non è propriamente una città turistica. Sarà importante gestirla insieme alle categorie degli alberghi, alla rete degli albergatori, e sarà importante anche coinvolgere la città metropolitana, perché qua siamo a 10 metri dal comune di Tavagnacco, dove questa tassa non c'è. Quindi può essere un'opportunità se gestita bene, può essere un grande pericolo se non sarà gestita bene. La tassa non sarà applicata a chi sceglierà Udine per motivi di salute o di studio, ai minori, alle persone con disabilità, alle forze di polizia e ai volontari della protezione civile. Ma Udine non è la sola amministrazione ad aver scelto di finanziare il sistema turistico con i proventi della tassa di soggiorno. Da tempo i turisti la pagano a Trieste, Lignano, Grado, Aquileia, Forni di Sopra, Arta Terme, Sauris, Forni a Voltri, Ravascleto e Sutrio, mentre altre amministrazioni hanno già approvato i regolamenti e alla spicciolata la stanno introducendo. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Scende il prezzo delle case, aumenta la domanda di immobili in affitto, che storicamente scarseggiano in tutta la regione. Ne abbiamo parlato questa mattina. Buongiorno Regione. Da mesi l'Europa guarda con apprensione alla crisi immobiliare che sta investendo la Germania, dove i prezzi delle case sono scesi al minimo storico, con un calo che sfiora il 7% rispetto al 2022. Anno d'oro quello per il mercato immobiliare del Friuli Venezia Giulia, con 73 compravendite registrate ogni giorno. Il 2023 non chiuderà altrettanto bene, visti i continui rialzi dei tassi di interesse imposti dalla BCE, che hanno fatto lievitare le rate dei mutui fino al raddoppio. Eppure i prezzi tengono, anche quelli delle seconde case, e la bolla immobiliare è lontana. Stefano Nursi, presidente FIAIP FVG, la principale associazione di categoria degli agenti immobiliari. Effettivamente i tassi dopo 10 rialzi consecutivi della BCE sono aumentati, e quindi diciamo che l'acquisto della prima casa, che 7 volte su 10 è legata a un mutuo, effettivamente anche quella ha rallentato un po'. Però anche qua in termini relativi, nel senso che il tasso ufficiale di sconto è al 4,5%, gli istituti di credito attualmente stanno facendo delle campagne promozionali anche al 3,5%, quindi stanno scommettendo su un rallentamento. Continua ad aumentare la domanda di immobili in affitto, che storicamente scarseggiano in tutta la regione. Oggi poi chi affitta casa preferisce puntare sui turisti, perché più remunerativi rispetto agli affitti di lungo periodo. Il governo in questi giorni sta studiando il modo di ostacolare questo fenomeno alzando le tasse. Adesso non abbiamo ancora, diciamo, le definizioni di questa norma, però probabilmente aumenterà per quanto riguarda le locazioni brevi sul dare a partire dalla seconda casa al 26%, però attendiamo un attimo di capire cosa succede. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. La rompighiaccio Laura Bassi, di proprietà dell'OGS, è partita sabato scorso da Napoli, dove ha completato le fasi di caricazione delle strumentazioni scientifiche e dei materiali in vista della nuova campagna scientifica del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide. La nave arriverà in Nuova Zelanda a inizio gennaio 2024, per poi iniziare il suo viaggio verso l'Antartide con a bordo 38 tra ricercatori e tecnologi italiani e un equipaggio navigante di 23 membri. Prima di salpare, la nave è stata sottoposta a una serie di lavori di trasformazione nei cantieri del Mediterraneo, che hanno interessato la realizzazione di un nuovo laboratorio sul ponte di Coperta e di una camera baltica, ovvero una struttura scatolare in acciaio alta 6 metri e lunga 7, in grado di contenere al suo interno la rosette, la principale strumentazione di campionamento utilizzata in oceanografia. Si tratta di un sistema che preleva campioni d'acqua e misura alcune sue caratteristiche, può raggiungere i 6.000 metri di profondità. La Laura Bassi parteciperà quindi alla 39esima campagna in Antartide. Per la prima volta la missione sarà condivisa con il progetto antartico neozelandese, a cui afferiscono 12 ricercatori. Circumnavigherà l'intero mare di Ross e concluderà la sua missione antartica a marzo del 2024 a Littleton, per poi tornare in Italia a fine aprile. Quella dell'OGS, ricorda lo stesso istituto, è oggi l'unica nave italiana rompighiaccio per la ricerca oceanografica e al momento anche la prima e unica nave battente bandiera italiana in grado di operare in mari polari, sia in Antartide sia in Artico, conforme alle regole internazionali per l'accesso delle navi alle aree polari. Appuntamento con la grande musica ieri sera al Teatro Verdi di Pordenone, protagonista uno dei più acclamati direttori d'orchestra della scena internazionale, Sir Antonio Pappano, alla guida della London Symphony Orchestra. Pappano ha diretto la Chamber Orchestra of Europe, compagine nata nel 1981 sotto l'egida di Claudio Abbado. È stato un appuntamento di livello assoluto, quello che ha portato ieri sera al Teatro Verdi di Pordenone due enormi talenti della musica classica italiana e internazionale, il maestro Antonio Pappano e la pianista Beatrice Rana. Tra i più celebrati direttori al mondo, da poco nominato alla testa della London Symphony Orchestra dopo 17 anni all'Accademia di Santa Cecilia di Roma, sul palco pordenonese Pappano ha diretto in esclusiva regionale la Chamber Orchestra of Europe, creata nel 1981 da Claudio Abbado, che ha eseguito la Sesta Sinfonia di Dvorak e l'introduzione Allegro del compositore inglese Edward Elgar, due brani del periodo tardo-romantico che hanno dato risalto alle qualità degli orchestrali guidati dal violino di Lorenza Borrani. Pugliese Beatrice Rana, la più grande e acclamata solista italiana degli ultimi anni, ospite fissa delle più prestigiose sale da concerto del mondo, si è esibita invece nel celebre concerto Opera 54 per pianoforte e orchestra di Schumann, di cui ha messo in luce gli aspetti più lirici e struggenti in un'esecuzione che resterà a lungo nel ricordo del pubblico. Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Il docufilm La donna longobarda, che ha già ricevuto 29 riconoscimenti internazionali, è stato selezionato per la finale del 77esimo Festival Internazionale del Cinema di Salerno, al via oggi fino al 2 dicembre. Sarà proiettato oggi al Cinema Augusteo. A Matteo Grudina, presidente di Invicti Lupi, che ha realizzato il docufilm, abbiamo chiesto come viveva la donna longobarda e se si possa considerarla, rispetto all'etica del periodo, una donna emancipata. La donna longobarda aveva qualche libertà in più rispetto alle altre donne di varie popolazioni germaniche, diciamo cosiddette barbare di quel periodo storico. La donna longobarda non era ritenuta capace di diritto. Questo intende che la donna non è mai soggetto di diritto, diritto civile, diritto penale, quello che è, ma è sempre oggetto, perché era sempre sottomessa a una patria potestà che era o del padre o del fratello maggiore quando ancora non era sposata e quando veniva data in moglie, perché i matrimoni comunque erano tutti combinati, mandava sotto la patria potestà del marito. Le leggi longobarde danno qualche indicazione per dare un minimo di protezione alla donna, ma è sempre vista come sottomessa all'uomo. Con le leggi di Rotary e poi di altri re vengono però previste delle pene per gli uomini che commettono violenza sulle donne. Da questo punto di vista qualcosa si inizia a fare. Quindi rispetto agli altri popoli barbari lei diceva che la donna longobarda è un po' più libera. In che senso? Ad esempio al momento dello sposarsi si è prevista che abbia una dotazione finanziaria o di proprietà, un qualcosa che non la renda totalmente schiava dell'uomo a cui va a sposare. Sembra un po' un controsenso parlandone nell'ottica del 2023, ma la donna poteva avere delle proprietà che non potevano essere vendute senza il consenso della donna. Ci sono figure anche di donne potenti, soprattutto verso la fine del periodo longobardo, della costruzione di molti monasteri, perché i re e i duchi iniziano a investire molti soldi nelle proprietà ecclesiastiche, e lì vengono messe delle donne, solitamente che fanno parte delle famiglie nobili, quindi figlie non date in matrimonio, ma che si avviano alla carriera monacale, però che diventano dei centri di potere, di cultura. Lo sport, il calcio, torniamo sulla sconfitta dell'Udinese ieri all'Olimpico, 3-1 il risultato finale della partita contro la Roma. La prossima domenica i bianconeri a caccia di punti se la vedranno con l'Hellas Verona. I lampi giallorossi folgorano l'Udinese nei 10 minuti finali. Per Cioffi, la prima sconfitta dopo i 5 punti conquistati nelle 3 partite precedenti nasce nel primo tempo, quando i friulani non arrivano mai alla conclusione e subiscono il gol di testa di Mancini. Sentiamo il tecnico dell'Udinese. Abbiamo regalato un tempo alla Roma in termini di fase difensiva, senza aggressività, passivi, sempre via di mezzo, e con la palla poco propositivi, una squadra che sembrava non avere idee, e quindi è corretto, sappiamo cosa non dobbiamo fare mai più, quindi da lì ripartiamo. L'Udinese esce cambiata dallo spogliatoio, lo dimostrano l'occasione di Toven e il gol del pareggio dell'ex Tigre. Nel finale il riassetto difensivo con l'uscita di Ferreira richiesta dal portoghese, come contro l'Atalanta regala spazi e gol all'avversario. Dybala e poi El Shaarawy tolgono un punto alla classifica dei friulani, di nuovo soltanto uno scalino sopra la zona retrocessione. Il calo è... c'è tanti motivi perché c'è calo, probabilmente perché non copri più la palla bene davanti, probabilmente perché scivoli peggio nelle chiusure. Per il tecnico fiorentino, 5 tiri in porta della Roma e 3 gol subiti sono troppi, ma sono anche troppo pochi i 2 tiri dell'Udinese, che domenica prossima giocherà un altro scontro diretto contro l'Hellas Verona, fondamentale per i friulani recuperare Pereira. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Basket a 2, iniziamo con la bella vittoria casalinga della Pallacanestro Trieste contro Forlì. Trieste c'è, europeizzando il proprio gioco ottiene la 5ª vittoria consecutiva che consente l'aggancio al 2º posto a farle le spese l'Unieuro Forlì. I ragazzi di Christian partono forte con il pallone sotto per comodi appoggi di Candussi e Vildera, si ritrovano sopra in doppia cifra grazie alla difesa ma subiscono il rientro ai romagnoli nel finale di secondo periodo. L'attacco infatti non gira più contro le 1000 soluzioni tattiche difensive di Antimo Martino e dall'altra parte Xavier Johnson a ergersi protagonista. Al riposo lungo si va sul 35 pari, dagli spogliatoi esce una Trieste che continua a faticare ma che si compatta nonostante Forlì trovi ai tiri liberi l'ancora di salvezza per non andare alla deriva. Con Allen e il solito Cinciarini va addirittura avanti, ma i biancorossi in un incomprensibile look total white riescono a non farsi prendere dall'ansia, a condurli a Ruzier che segna in penetrazione da Reyes uno dei 7 assist della sua partita per il 59-57. La tripla successiva di Brooks un sospiro di sollievo, Reyes fa 66-60, Forlì prova a rimanere in partita ma il morale crolla quando Candussi con l'aiuto della diabendata fa il nuovo più 7. A quel punto Trieste dilaga con un 12-0 di parziale che chiude i conti, 79-62, ancora una prova convincente in difesa e secondo posto in compagnia agganciato, 21 i punti di un buon Brooks liberato dei compiti di regia dall'ottimo Ruzier. Dopo il girone d'andata Trieste è seconda 2 punti dietro la capolista Fortitudo e davanti negli scontri diretti contro Udine e Forlì dopo le 3 sconfitte di fila di ottobre, chi l'avrebbe mai detto. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Vince anche Udine al Carnera con il Rimini, strada in salita invece per la Gesteco che perde il match in Emilia contro Cento. Riscatto ma con fatica, l'Old Wild West sale ancora una volta sull'otto volante ma rischia un po' contro il fanalino di coda Rimini, peraltro senza il suo miglior giocatore Justin Johnson. I friulani, un po' approssimativi in difesa contro un incontenibile Marks, sfruttano ancora una volta la specialità della casa, il tiro da 3 punti quando serve. Nel secondo quarto, Sotto, Monaldi e compagni piazzano un break convincente che però non basta a piegare definitivamente i romagnoli. Il playmaker è comunque il migliore in campo, 21 punti, 5 su 10 da 3 con 4 su 4 nel primo tempo che frutta un pirotecnico 55-47 al riposo. Nella ripresa squadra logicamente meno precisa, Libegovic porta subito l'apo a più 12, Carotti e Daros con 2 bombe impediscono che gli ospiti di Dell'Agnello tornino troppo vicino. Negli ultimi 10 minuti Rimini trova almeno 6 ancora con Marks, 80-74, Vertemati è bravo a cambiare, spartito e andare da Clark. Nel finale, sopra gli 8, qualche distrazione di troppo costa il tentativo di impresa romagnolo. A 13 secondi dalla fine Grande riporta i suoi a meno 3, a chiuderla però una schiacciata di Gaspardo per il 92-87 finale. Cade invece ancora Cividale che in classifica resta a quota 6, vede scappare Cento e la zona playoff ma si consola tenendo 3 squadre dietro per ora. A Cento proprio bruttissima partita per gli uomini di Pilastrini con un redivo spento e impreciso. Gli emiliani con il nuovo acquisto Mitchell e l'ex Apu Mussini scappano subito via con un vantaggio in doppia cifra che nel finale di secondo quarto arriva addirittura a quota 19, a ridurlo è Col che gioca un buon primo tempo. Nella ripresa i ducali si aggrappano alla solita strategia di provare ad arrivare a un finale punto a punto. Rotemiani suonano la carica, Marangon segna il meno 7 con un quarto da giocare, poi però dopo il meno 6 firmato Rota le energie crollano di colpo, sono Moreno e l'altro ex friulano Palumbo a chiudere i conti, finale 78-67. Nel girone di ritorno per evitare la zona rossa servirà a cambiare passo. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Grande festa dello sport inclusivo ieri a Udine, protagonisti aspiranti sportivi con disabilità. Sport e inclusione, sport e disabilità, a Udine la festa dello sport inclusivo, la 6ª edizione della manifestazione organizzata dall'Associazione Sportiva Udinese. Sulle pedane del palazzetto ragazzi disabili e non hanno provato 9 diverse discipline come danza, ginnastica artistica maschile e femminile, ginnastica ritmica, footbike e altro, con prove che sono pensate in un'ottica inclusiva. Giuliano Clinori, vicepresidente nazionale XEN. Il nostro motto è l'inclusione, non è l'integrazione. Integrazione vuol dire che dobbiamo integrare qualcosa di diverso a uno stato di fatto. L'inclusione vuol dire che tutti possono accedere a tutto. Nicola Di Benedetto, direttore generale dell'ASU. Oggi disabili e non disabili che fanno sport insieme si conoscono, si capiscono, si interpretano. Questo è solo uno dei pochi e piccoli, magari anche non troppo importanti passi che lo sport può fare, però lo sport ha una potenzialità incredibile, che è quello di unire la gente e di far star bene tutti. Tanti ragazzi per questa giornata di festa, che è un momento di incontro e scambio tra diverse esperienze, come quella di Simone Masotti, architetto quarantenne di Pradamano, autore di numerose imprese sportive che lotta contro il Parkinson e grazie alla bici ha trovato una nuova dimensione, o Stefano Colle, primo tecnico di footbike autistico. Simone Masotti. Con l'utilizzo della bicicletta io posso dire di aver diminuito i farmaci che prendo e l'ho trovato un ottimo modo per affrontare i problemi che la malattia mi aveva posto. Stefano Colle. Quanto ti ha aiutato questo sport? Tantissimo, veramente. Prima ero tutto così, ero parlavo fatica, ero molto rigido. Adesso sono molto rilassato, sono felice, ho sempre il sorriso. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto per questa edizione. In redazione ha collaborato Samantha Gon, per la parte tecnica in regia Walter Vidonis ed Eugenio Giuffrida. Da parte di Dario Ronzoni e di Elisabetta Zaccolo, l'augurio di una buona giornata e grazie per l'attenzione. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.